sempre uguale questa vita di città, non sembra festa la domenica, girando per le strade la gente non ti vede e tu ti accorgi che non sei di qua. Ma giunse la tua voce all'improvviso ed esser quasi a casa mi sembrò. Tu sei del mio paese e parli come me, con quel parlar cortese, tutto ciò che amai vedo in te, mi par di ritrovare un po' di gioventù, quell'aria familiare, l'intimo calor di laggiù. Nell'aria chiara sento rintoccar campane al sole, e il canto lieto desta nel mio cuor la voce che dice ritorna. Tu sei del mio paese e solo a te dirò, rimpiango troppe cose, certamente un dì tornerò. Cose, certamente un dì tornerò, certamente un dì tornerò.